Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Oggi parliamo di un libro di economia che riguarda un tema che è di stretta attualità in questo periodo in cui i mondiali di calcio impazzano sugli schermi. Miracolo africano di Riccardo Barlam e Massimo Di Nola, due giornalisti del gruppo del Sole 24 Ore che abbiamo qui con noi. Buonasera Massimo Di Nola. Buonasera a tutti. E buonasera a Riccardo Barlam. Buonasera direttore. Allora, Miracolo africano, leader, sfide e ricchezze del nuovo continente emergente, un libro edito dal Sole 24 Ore con prefazione di Romano Prodi, e proprio Romano Prodi nelle sue prime righe dice: l'Africa è un continente che vive un'importante fase di trasformazione, in Italia poco conosciuta, se ne scrive poco ed è una lacuna che tutti dobbiamo contribuire a colmare. Ecco, Riccardo Barlam è stato ed è inviato del Sole 24 Ore in Africa. Ecco, veramente questa immagine dell'Africa che gli italiani in media hanno è diversa da come l'Africa è, Riccardo Barlam? Sì, direi di sì, è un continente vivissimo e lontano dallo stereotipo che abbiamo noi di posto di poveretti. È vero, è anche vero che l'Africa è un continente dove ci sono dei contrasti sociali incredibili, ma è più vero che è un continente dove c'è una ricchezza di umanità, di relazioni, di vissuto che forse noi in Europa abbiamo un po' dimenticato. Il senso della famiglia, per dire, la famiglia africana è una cosa incredibile per chi ci va, tant'è che ogni volta che qualcuno torna in uno di questi paesi si dice il mal d'Africa. Il mal d'Africa è proprio questa sensazione di stare in un posto dove non hanno niente ma hanno tutto da un certo punto di vista. A parte questo discorso, se vuoi, metafilosofico, c'è un discorso economico ben preciso, perché in Africa ci sono i paesi emergenti. Massimo può dirti molto più di me. Eccolo qua. Allora Massimo, si parla di Africa, ma forse sarebbe più giusto parlare di Afriche, perché c'è una realtà di un continente che è certamente complesso, con grandi differenze anche da paese a paese. Esatto, e anche direi con grandi differenze di rapporti tra l'Italia e l'Europa in genere e questi paesi qui, nel senso che l'Africa che noi più conosciamo è quella mediterranea, che è anche quella con cui siamo ovviamente più integrati. Quella che conosciamo meglio invece è l'Africa cosiddetta subtropicale, dove stanno succedendo veramente tante cose. L'aspetto veramente importante è questo, che in concomitanza con il cambiamento che la globalizzazione ha portato nel mondo, soprattutto delle materie prime, l'Africa è tornata di moda anche dal punto di vista economico, perché è un paese che ha delle enormi risorse di materie prime, sia minerarie, un po' meno, ma anche petrolifere, e soprattutto ci si dimentica, perché si pensa all'Africa e alla fame, ma anche agricole. E proprio alla ricerca di queste materie prime si sono mosse una serie di nazioni e di gruppi di interesse economico che sono nuovi per l'Africa. Non sono gli americani, non sono gli europei, ma sono per esempio enormemente i cinesi, sono moltissimo i paesi del Golfo. E dal punto di vista economico l'aspetto interessante è che l'arrivo di questi investitori, di queste di iniziative legate a questo settore delle materie prime di base, sta portando sviluppo al vasto raggio, diciamo. Prendiamo un caso tipico, quello dell'Angola. L'Angola è uscita dalla guerra civile pochi anni fa. Nel giro di 8 anni non solo è ripartita le stazioni di petrolio, sono ripartite varie attività minerarie, ma si sta costruendo dappertutto autostrade, reti idriche, condomini, alberghi di lusso e meno di lusso. Basterebbe guardare Google dall'alto, ecco, e si vede una Luanda che sembra un paese in sviluppo della Cina, una città in sviluppo della Cina di 15 anni fa. Ecco, ma in questa prospettiva, Riccardo Barlam, non è che questo presenza cinese molto forte a livello di investimenti, a livello di interesse, non sia in una certa forma quasi una nuova colonizzazione? È l'accusa che gli fanno le vecchie colonie, i vecchi paesi coloniali, Gran Bretagna, Francia, Germania e un po' anche gli americani. E io vedo più il positivo. I cinesi hanno sparigliato le carte e sono molto pragmatici e soprattutto applicano questo principio di non interferenza, vale a dire, a loro non interessa se fanno affari con una democrazia, con una dittatura. A loro interessa appunto fare affari, quindi è quello che fanno. L'anno scorso, lo fanno ogni 4 anni, fanno un vertice con i paesi africani. La cosa buffa è che questo vertice è un vertice bilaterale dove c'è un paese sovrano, la Cina, e ci sono altri 53 paesi sovrani, che sono quindi un paese tra un paese e 53 paesi, e loro fanno in questi l'ultimo è stato fatto in Egitto l'anno scorso, lo raccontiamo anche nel libro, fanno un piano d'attacco con un programma molto ambizioso di sviluppo, ma anche che ha programmi di assistenza sanitaria. Quindi, come dire, ci sono tanti aspetti della presenza cinese. È vero che loro prendono, ma è vero anche che danno, e danno davvero. Pensate che la sede dell'Unione Africana, che sta nascendo in questi mesi ad Addis Abeba, sarà un grattacielo di cristallo progettato da un architetto cinese a forma di abbraccio. Quindi abbraccerà tutta l'Africa idealmente, e attorno a questo grattacielo sorgeranno tutte le direzioni generali, come a Bruxelles. Insomma, diventerà Addis Abeba un po' la capitale davvero di questa Unione Africana, che è nata da 6 anni e sta muovendo i primi passi anche importanti di, come dire, dal punto di vista politico. Per esempio, l'ultimo vertice dell'Unione Africana hanno approvato questo principio che stabilisce che un dittatore non può, in qualche modo, una persona che ha preso il problema africano, quello della leadership, non può ricandidarsi alle elezioni. Nel momento in cui ci sono elezioni in un posto dove è arrivato magari un golpe militare, così, allora se questa persona si ricandida non potrà più presentarsi, non potrà avere più una poltrona nella Unione Africana, per dire che si stanno muovendo anche tante cose, integrazione politica. E poi, vabbè, poi ci sono i mondiali. La storia dei mondiali è una storia molto interessante, è una scommessa vinta per il Sudafrica, ma anche per tutta l'Africa. Pensate che gli stadi li hanno terminati 4 mesi prima. Ad Atene non era andato così per le Olimpiadi di Atene qualche anno fa. E la Grecia qualche problema economico, infatti, ce l'ha, come ha dimostrato gli ultimi mesi. Ma io vorrei tornare proprio sull'aspetto della politica africana, dei rapporti con gli altri paesi. In questa prospettiva l'Italia, lo dite anche nel libro, ha delle opportunità di sviluppo dei rapporti con gli africani, con l'Africa. Massimo Di Nola. Sì, l'Italia e il suo sistema stanno cercando nuovi mercati. Beh, l'Africa è uno di questi. Ci sono imprese italiane nel settore della costruzione, mi viene in mente la CMC di Ravenna, oppure invece nel settore delle catene alimentari, catene del freddo, mi viene in mente Cremonini, che dicono ci sono pochi posti al mondo dove si riesce a guadagnare tanto come in Africa, perché l'Africa ovviamente ha bisogno di tutto, e a differenza di paesi come la Cina, come gli altri paesi in cui noi stavamo andando a guardare negli ultimi anni per cercare di alimentare il flusso esportatore delle nostre piccole e medie imprese, è un paese dove c'è spazio anche per i piccoli, dove non c'è questo strapotere dei governi, e quindi gente che ha iniziative e savoir-faire, come dicono i francesi, che uno sappia fare degli infissi per le finestre piuttosto che montare delle caldaie, piuttosto che fare della metallurgia, in Africa trova facilmente non solo mercato, ma anche, questo è importante, capitali. Ecco, indubbiamente, quindi come opportunità è molto forte. L'Italia peraltro ha una grande tradizione di rapporti con l'Africa, magari sotto altri aspetti. Per esempio Romano Prodi, nella sua introduzione, ricorda le missioni cattoliche che in molti paesi dell'Africa hanno portato non solo una testimonianza, ma anche strutture civili, ospedali, scuole e così via. E quindi un rapporto che può essere anche reso più forte dagli immigrati africani in Italia in questo periodo, che spesso tornano poi nella loro terra, quindi marocchini, quindi etiopi, quindi senegalesi, che sono venuti in Italia, che in Italia imparano un mestiere, che forse possono in futuro tornare e creare dei legami positivi. Quindi in questa prospettiva, Massimo Di Nola, l'Italia, diciamo, è ben piazzata, poi deve sfruttare questi talenti. Esatto, ti faccio un esempio di quello che tu dici. I lavoratori ghanesi, che ce ne sono molti in Emilia, proprio nel settore agroalimentare, ormai molti stanno tornando e stanno aprendo delle piantagioni, delle piccole fabbriche di trasformazione alimentare. Hanno instaurato dei rapporti, per esempio, con il mondo delle coop, per cui si sono creati dei flussi commerciali. Ricorda un po' quello che sta succedendo con gli immigrati africani, quello che è accaduto con gli immigrati turchi e la Germania nell'Europa degli anni 60, diciamo. In Turchia c'è stato una forte ondata di licenziamenti quegli anni lì. I lavoratori che sono tornati hanno aperto fabbriche tessili, officine, eccetera, e oggi tra Turchia e Germania c'è un flusso commerciale enorme. Riccardo Barlam, dove andresti a vivere da grande? Qual è il paese africano? Ha tanti problemi anche sociali, perché sia con la minoranza bianca, che c'è un nuovo apartheid che riguarda la minoranza bianca, una cosa incredibile che sta venendo fuori, perché da qualche anno hanno fatto una legge per dare più lavoro ai neri, quindi in Sudafrica si è creata una classe media di neri e i bianchi sono fuori da questa cosa, e quindi ci sono tanti bianchi in situazioni di povertà, come anche nelle township ci sono i neri che a loro volta hanno un rapporto xenofobo, se vogliamo, con i profughi che arrivano dai paesi più poveri vicini come lo Zimbabwe, quindi sono fenomeni di leghismo da sud, diciamo così, si potrebbe dire. Quindi anche nei paesi così che sono ricchi, comunque problemi sociali, problemi di rapporti tra le diverse realtà sociali esistono comunque. Massimo Di Nola, qual è il paese africano che ti emoziona di più? Ma bisogna conoscere tutti, direi, da un punto di vista economico-politico. Il paese dove oggi mi baserei per avviare delle attività nell'Africa subtropicale è il Ghana, sicuramente, perché è un paese con delle risorse umane eccezionali, con una struttura politica molto, molto solida, democratica, aperta. Dopodiché, per la bellezza, ci sono delle cose fantastiche: Madagascar, la Costa del Capo, il Mozambico. Grazie mille, grazie allora anche per questi suggerimenti a Massimo Di Nola e a Riccardo Barman, giornalisti del gruppo del Sole 24 Ore, che hanno scritto per l'edizione del Sole 24 Ore il libro Miracolo Africano, leader, sfide e ricchezze del nuovo continente emergente, prefazione di Romano Prodi. Sono 160 pagine per un prezzo di 19 euro. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, buona serata a tutti.